Con registratore Sony per la conferenza di oggi. Gentili signore, gentili signori, cari amici, come presidente della Camerata, per primo, nel nome dell'intero consiglio direttivo e dei componenti della commissione del premio, desidero porre a voi tutti il più caloroso benvenuto e il ringraziamento per essere intervenuti a questa cerimonia per la consegna ufficiale dei premi dei poeti vincitori, i cui nomi sono già stati resi noti dalla stampa. Un ringraziamento particolare al sindaco Bogianchino e all'assessore della cultura Morales per averci concesso il patrocinio del comune e di averci ospitati in questo magnifico salone dei 200 legato alla millenaria e gloriosa storia di Firenze. Un sentito ringraziamento alla direzione della Cassa di risparmio di Firenze, della Banca del Vecchio e della Banca Mercantile che hanno contribuito alla realizzazione del premio. Infine un doveroso ringraziamento a tutti i poeti indistintamente che così numerosi hanno partecipato da tutte le parti d'Italia e dall'estero. Ho detto tutti poiché sul piano creativo ed umano i poeti sono tutti uguali. Ad essere definito poeta equivale al riconoscimento di possedere una condizione di particolare privilegio, di persona dotata di grande sensibilità che dispone di uno stato d'animo recettivo e di istintiva generosità che avverte l'insopprimibile bisogno di esternare ad altri il proprio mondo interiore che scaturisce dalla fantasia creatrice fatta di esaltazione e di angoscia. La Camerata dei Poeti, nata nel 1930, ha raggiunto il suo 57° anno di vita. Pochi iniziati ispirandosi all'antica Camerata dei Bardi che nel 1568 rese celebre Firenze nel suo prestigioso rinascimento senza alcun fine emulativo di grandezza, anzi, scegliendo il culto della poesia che era sinonimo di umiltà ed essenza spirituale, un'emulazione limitata alla celebre insegna in quanto quella parola camerata calzava bene i poeti fondatori che avevano la piena consapevolezza di intraprendere una vera missione culturale e sociale. In fondo, la poesia, oltre che elevazione spirituale, è anche gioia dell'anima. Così quei pochi posti all'inizio si radunarono dinanzi ad un laghetto della collina fiorentina prossimo al castello di Vincigliata, dove si alternavano a declamare i propri versi. Il laghetto, circondato da sventanti cipressi e da superbi chiomini giganteschi pini, offriva ai pochi privilegiati spettatori uno spettacolo di suggestiva ed esaltante emozione. In quel religioso silenzio la voce dei poeti si innalzava al cielo come una preghiera. Così prese l'avvio il sodalizio che andò sempre più consolidandosi con l'aggregazione di nuovi poeti, istituendo regolari tornate nelle quali i poeti si alternavano di volta in volta. L'attività fu sempre animata da grande fervore e mai venne interrotta anche durante il periodo della guerra. I programmi erano vari, poiché le tornate erano dedicate a poeti del passato non sufficientemente valorizzati, a classici visti da un'angolazione critica moderna, ma soprattutto alla scoperta di nuovi poeti e particolarmente i giovani che avrebbero costituito la forza viva per garantirsi il culto di essa alle future generazioni. Un lavoro lento, metodico, svolto in silenzio, avulso da ogni interesse penale, ma sostenuto da grande dedizione. Tutto ciò in questi 57 anni che hanno consentito al sodalizio di guadagnarsi un prestigio morale e culturale non comune. Ma il fatto più singolare che distingue la Camerata è quello di non avere mai avuto, e tantomeno richiesti, aiuti finanziari ad enti o privati. È proprio questa scelta di povertà che la distingue da ogni altra iniziativa. Essa è sempre vissuta con quote modestissime dei suoi soci fondatori e simpatizzanti, consentendole il privilegio di sentirsi libera da ogni vincolo e pressione e quindi di totale indipendenza. Alla strada prescelta della modestia ha sempre fatto riscontro la piena accoglienza e l'ammirazione di un vasto pubblico di estimatori. In termini correnti, il sodalizio può definirsi con una sola parola, pulito. Ai giorni nostri credo non sia un titolo molto diffuso. Dalla camerata fanno parte una miriade di poeti, dai nomi più noti a quelli più illustri. E fra questi non posso omettervi un Giovanni Papini, scusatemi l'inciso, indegnamente dimenticato. Un Angelo Orvieto, un Michele Campano e tanti, tanti altri che hanno irradiato il culto e l'amore della poesia. Parlare di noi stessi potrebbe essere interpretato come una forma di esibizionismo, ma il mio costume è la franchezza e non mi curo delle voci malevoli di gente meschina, anzi è con legittimo orgoglio e anche con gratitudine che io vi presento la poetessa Iolanda Milaninelli che oltre ad essere la vicepresidente a vita della Camerata è stata anche una delle soci fondatrici. Durante la sua lunga esistenza la Camerata non aveva mai pensato di istituire un premio di poesia, lasciando ad altre iniziative il farlo, conscia del servizio che già ad essa dedicava. Ci voleva l'eccezionale riconoscimento di Firenze Capitale della Cultura Europea per il 1986 per farla decidere a realizzare il premio internazionale di poesia, contribuendo in modo tangibile a far conoscere la vera natura della nostra città, nei suoi valori di culla dell'arte, nell'eredità delle tradizioni culturali. Ma se i poeti fondatori della Camerata tennero presente il lascito del Carducci di quei versi che pronunciò verso la fine della vita terrena. A me, pria che l'inverno stringa l'anima mia, il tuo riso, o sacra luce, o divina poesia. Quindi, memorabili il testamento che leva la poesia a sacra luce divina. Noi attuali dirigenti avvertiamo qualcosa di più nell'impegno culturale e sociale. Oggi viviamo un particolare periodo storico nel quale l'Italia, come tutte le società industrializzate e massificate, sono coinvolte. Il terrorismo, la violenza, la degenerazione del sesso, la droga, il suicidio come liberazione da una società che non è ritenuta degna di vivere. Sotto l'etichetta del progresso e di conquiste sono state abbattute le leggi morali ed ogni atto è materializzato e, specie nei giovani, ha creato il vuoto e ha ucciso la speranza. Occorre rivitalizzare l'essere dando voce alle angosce del nostro tempo. In questa ottica la poesia può svolgere un compito di grande importanza come mezzo di elevazione dallo spirito e poi in fondo è manifestazione del profondo e contemporaneamente l'esaltazione della bellezza, dell'amore, della speranza, del sublime miracolo della vita. E questo è il contributo che la Camerata ha inteso dare a Firenze, capitale della cultura europea, istituendo il premio, tanto più che tale premio non verrà ripetuto, il gesto di omaggio assume maggiore significato. Devo dire che la partecipazione al bando del premio è stata eccezionale, in tutta l'Italia, non solo per il numero dei poeti che hanno inviato le loro opere, ma particolarmente per l'alto livello creativo di molte di esse, che per primi hanno stupito i componenti della commissione giudicatrice. Abbiamo ascoltato tutte quelle voci di diverso stile espressivo, che riescono a disancorarsi da disumanizzanti filtri tecnologici, per essere a contatto con la realtà che non è fatta solo di luna, di sole, di stelle e di tenerezza, ma anche denuncia di costume, di male, di pericoli. Sono grida che i poeti, investiti dal dono della lungimiranza, riescono a lanciare e a diffondere nel mondo. Quindi il loro grido è cosmico e non andrà perduto, poiché illuminerà le coscienze, schierandole verso il bene comune e la fraternità. Prima di chiudere questo mio breve intervento, passo la parola al professore Mezzasalma, membro della giuria che ha il compito di rendere ufficiali le motivazioni di ogni opera premiata in conformità ai verbali delle commissioni. Poi sarà la volta della poetessa Margherita Guidacci che motiverà l'assegnazione del premio speciale della giuria assegnata alla poetessa americana Vanda Bonta ed infine la poetessa Paola Lucarini Poggi che oltre a far parte della commissione pregata da noi tutti, ha cortesemente assunto il ruolo di madrina e di annunciatrice. Paola, mi saluto. desidero ancora una volta esprimere le più vive congratulazioni ai premiati e uguale sentimento verso tutti i poeti che hanno partecipato. Grazie. A più riprese nelle nostre cronache letterarie si discute con crescente acrimonia sulla legittimità o meno dei premi letterari. Chiunque sappia tenere la penna in mano si sente autorizzato ad esprimere codice verso per queste manifestazioni culturali camuffate secondo le accuse di opportunismo o comunque di utilità. Eppure, finché si riusciranno a salvare l'utopia, il sogno, la bizzarria, il riso, il gioco, la cosciente finzione, l'invenzione del possibile, forse il nostro mondo non finirà, come ci minacciano che stia per avvenire tutti i colpi dell'apocalisse prossima avventura. Ancora una volta, per farci paura e costringerci al servizio o all'illusione che serva invece qualcosa, agitarsi e gridare senza avere in realtà nessuna verità da contrapporre al male del mondo, nessun messaggio che non sia prettamente utilitaristico e teso soltanto a fare i buoni servitori o organizzatori del consenso, anche per la più sublime illusione della storia. La vita della letteratura, malgrado tutte le ferite che ha ricevuto, lontane nel tempo e prossime, è forse una garanzia per la nostra stessa vita, per un significato rispetto a ciò che appare e anche per questa brutta storia dove siamo capitati. Nell'anno in cui Firenze, capitale europea della cultura, e dopo l'indimenticabile convegno mondiale dei poeti a San Miniato al Monte, non poteva mancare un appuntamento come quello di stasera, che ha indubbiamente un significato non effimero, perché promosso da un'istituzione fiorentina che ha tenuto viva nel tempo l'utopia sacra della poesia. La Camerata dei Poeti realizza oggi non solo un suo sogno, ma soprattutto dimostra che non è tanto importante pubblicare versi o altro, quanto piuttosto scriverli e soprattutto occuparsene, senza più sentire nessun assurdo soprassalto di coscienza storico, sociale o morale, come gli ideologi della psiche e dell'azione avevano cercato di suscitare, tentando di far nascere il complesso di colpa nei letterati, perché non facevano analisi storiche invece di leggere e scrivere libri. In questa prospettiva, la giuria del Premio Internazionale di Poesia, la Camerata dei Poeti, composta da Eugenio Pagliai, presidente, da Yolanda Milani Ghetti, vicepresidente, da Lidia Ugolini, segretaria, e da Sante Ancona, Gino Dal Monte, Margherita Bilacci, Paola Lucarini Poggi, Carmelo Mezzasalma, Maria Luisa Marcucci, Nelly Cascio Pratini Nesi, Attilio Pagliaga, Maria Carmela Siemoni, si è riunita una prima volta il giorno 7 novembre del corrente anno per procedere ad una prima valutazione delle opere presentate. Il numero dei partecipanti con libri editi e poesie inedite era di circa 150, numero davvero elevato per un premio alla prima edizione. La giuria ha riscontrato il buon livello dei libri editi, mentre per la sezione degli inediti ha dovuto constatare, accanto ad elaborati significativi, anche e più numerosi, meno apprezzabili e significativi. Dopo attento esame, la giuria ha selezionato le seguenti opere: Occhi di gatto di Rita Baldassarri, Luna di giorno di Anna Carrara, L'arca di Noè di Alberta Vigliardi, L'età che non ebbi, l'età che non amai di Florio Longhi, Trittico di Pino Ruffo, Lo sguardo dell'uomo di Marcello Vitale. Successivamente, riunitasi in data 25 novembre, sempre del corrente anno, la giuria ha assegnato, con voto unanime, il primo premio a Rita Baldassarri per Occhi di gatto, Giardini Editore di Pisa, secondo premio ad Anna Carrara per Luna di giorno, Firenze 1985, terzo premio ad Alberta Bigardi per L'arca di Noè, gazebo di Salvo di Previsti, con la seguente motivazione. Rita Baldassarri, in Occhi di gatto, modula sul tessuto di quella prosa che incalza la vita le sue epifanie di immagini in cui fluttua l'angoscia segreta della luce. Ne nasce un canto, anzi una solitudine del canto, che si avvolge e avvolge le voci della natura nel pudore castissimo di quelle trame toccanti dell'essere che sostano talvolta ai margini del rimpianto o altrove del grido, fino a tessere la rete del sentire nella poesia della vita. Anna Carrara, in Luna di Giorno, offre una filigrana attenta e sensibile di un sogno misterioso, o per meglio dire, spinge questo sogno verso un approdo doloroso dell'eterno. In sottili fili di tristezza, l'orlo del suo vagare tra l'immediata memoria e l'anima di questa memoria schiude d'improvviso la palpabile vita delle penombre attraversate o ferite dai bagliori del mondo. Alberto Vigalli, con l'Arca di Noè, ci dà una splendida e suggestiva metafora della vitalità della parola poetica. L'entusiasmo da cui nasce questa parola oscilla e si dibatte nella tensione infinita tra i luoghi muti del presente e i richiami immensi del volo della mente. La giuria ha inoltre assegnato un diploma con medaglia a Fredo Longhi per L'età che non ebbi, L'età che non amai, Pino Ruffo per Trittico, Marcello Vitale per Lo sguardo dell'uomo, mentre ha assegnato il diploma d'onore ai seguenti autori: Nicola Macri, Alberto Manganiello, Maria Luisa Fulgenzi, Filippo Tornambè, Ida Salvo. Fuori concorso, la giuria ha voluto assegnare un premio speciale a Giancarlo Bianchi per il suo libro Il ramo del primo sole e Vanna Bonta per Ombre del mondo, in lingua inglese nella traduzione di Sergio Rinaldelli, di cui relazionerà Margherita Guidacci. L'opera di Giancarlo Bianchi si impone per l'altezza di un tema religioso che filtra figure della vita come un caldo itinerario di preghiera tra il silenzio delle cose e l'anima della parola. Per la sezione inediti, la giuria ha assegnato il primo premio a Ruth Cardenas, il secondo a Elio Casini e il terzo premio a Mario Solf con la seguente motivazione. Ruth Cardenas, assai libera nell'invenzione delle sue voci segrete, offre una sofferta e dolcissima adesione alle ragioni del cuore, un caleidoscopio di nomi misteriosi che mutano i rapidi squarci della pronuncia poetica in un rimpianto del sogno o la risurrezione del sogno. La voce di Elio Casini sa farsi strada nel reticolo di immagini naturali che ne incalzano il timbro inconfondibile, tutto teso a definire quella metamorfosi delle stagioni che trova il suo spazio, oscuro e vivido al contempo, in un rapido flettersi dell'anima nelle regioni ancora pure del sentire. Mobile e parimenti articolata, la poesia di Mario Soli insiste su diversi registri del ricordo alla ricerca di una patria perduta. Ne nasce paradossalmente una pace del cuore mormorante e rammemorante, che raggiunge esiti profondi di una religiosità della vita che conquista o dona della conquista. La giuria ha inoltre assegnato il diploma d'onore a Duccia Camiciotti, Franca Pratesi e Rossana Roberti. Margherita Guidacci. Mi è stato chiesto di presentare brevemente il libro di Vanna Bonta, intitolato Shades of the World, Ombre del mondo, e devo dire che considero questo libro veramente una scoperta importante fatta dalla nostra giuria, perché è un libro di eccezionale potenza e rivela un eccezionale temperamento poetico. Questa giovane donna possiede diventa una pienezza di vocazione poetica, tanto il suo corpo che la sua anima vibra a tutte le sollecitazioni della vita e in alcuni punti raggiunge veramente dei risultati che io trovo tra i più belli, forse che io abbia letto nella poesia di lingua inglese in questi ultimi anni. Cioè, per esempio, la sua lunga poesia intitolata She's Dead, cioè è morta, in cui parla di una negata e analizza tutto quello che la scomparsa di questa donna può suscitare, per poi veramente affermare l'universalità. Questa donna appunto non è morta, la risposta è che la vita dell'anima supera anche qualsiasi tragedia che possa avere toccato invece la vita terrena. E la Bonca ha delle poesie lunghe come questa, che appunto io dicevo poco fa al presidente Otello Pagliai, a me ha dato, diciamo, leggendola, dei brividi che non avevo provato da quando lessi Lady Lazarus della Plath. E poi ha anche delle poesie brevi, anche queste difficili, perché è difficile racchiudere nell'arco di pochi versi un messaggio importante, e che raggiungono tutte, o almeno quasi tutte, il segno. Forse vorrei leggervene una che mi sembra che dia in qualche modo veramente la sintesi di quello che è il mondo, di quello che è il cammino e di quella proprio che è la tensione verso la vita di questa giovane donna. Ve la leggo prima in inglese, poi la traduco. Some say it's the rain, some say it's the sun, but I know it's love that makes things good. C'è chi dice è la pioggia e c'è chi dice è il sole, ma io so che è l'amore che fa crescere. Presenta lieve e gioioso, nominare i premiati e invitarli qui vicino a noi. Spero che tutto si svolga semplicemente come previsto, ma se proprio dovessero accadere delle sorprese, almeno auguriamoci che siano come voi, splendidi amici, che stasera avete preferito passare un'ora con noi tra queste luci della poesia, piuttosto che fuori tra queste luci clamorose e invitanti dei regali di Natale. Questa mi sembra che sia stata anche una scelta di vita. Ora desidero invitare lettura di alcuni telegrammi giunti per l'occasione alla camerata dei voti. Impossibilitato presenziare sabato 13 dicembre Palazzo Vecchio, cerimonia premiazione Premio Internazionale di Poesia, causa sopraggiunti impegni, auguro successo manifestazione e invio miei migliori saluti, foto, cordialità, Giorgio Morales, Assessore Cultura Comune di Firenze. Altro telegramma. Questo viene da lontano, Los Angeles. Addolorata non intervenire alla cerimonia, ringrazio commossa giuria e presidente. Il mio amore a tutti e a Firenze, capitale di bellezza. Van Ponta. Con grande, grandissima gioia che mi rivolgo a Rita Baldassarri perché venga a ritirare il primo premio della Camerata dei Poeti per ieri, che le verrà consegnato dal presidente Otello Pagliai. Il premio per questo... in una medaglia d'oro e nel diploma d'onore. Prego Rita di avvicinarsi più al microfono. saremmo felicissimi se volesse dedicare a tutti noi qualcuno dei suoi versi. Sei una grande poetessa, che dovevi arrivarci a un io leggerò prima poesia della raccolta, perché che sembra più adatta a chiarire il titolo della raccolta, Occhi di Gatto. La piazzola è incassata tra mura e abitata da gatti che vivono sdraiati. Sono cenci, nell'erba. Hanno un'aria distratta e se li chiami non alzano il capo, come se trascinassero un dolore soltanto loro, che gli altri non sanno. Alla base del tronco, schiacciato contro terra, un gatto, nero e rosso, si perde tra le foglie arrugginite. Sul tronco, in pieno sole, corre una mano d'ombra che lo ingrandisce, stringe. Il tronco maculato si gonfia scuro e s'alza, come bestia che spucchi tra le foglie a curiosare nei giardini chiusi dove la gente siede, nelle notti d'estate, per la vita. Tutte le piante soffiano arrancando per la scalata al cielo, e il cielo è un orto seminato a stelle che germogliano al caldo dei bolloni di luce. L'albero si unisce nella notte, solo la chioma è un'onda di calore dove allargano chiari cerchi d'acqua, occhi di gatto. Un motore lontano fa diffusa e si struscia tremando sulla notte e qualcosa che scappa o che non c'è mai stato. Ci ritroviamo in una nicchia d'erba, come un'ombra appuntita a rompare la luce. Ne leggo un'altra brevissima. Tutti i cammini in fila si allungano verso la luna, si immergono in un mondo smaltato d'azzurro dove il vento strofina le stelle e le fa luccicanti. Manca quel centro, quell'accoglimento, manca un punto d'amore verso cui ogni cosa si scalda. Fra noi si raccontano i dolori delle altre come fossero favole. È quasi inverno, e un grillo canta ancora. Secondo premio, medaglia d'argento con diploma d'onore a Anna Carrara. Lo consegna la vicepresidente, signora Yolanda Milani Legli. Fiato silenziosa e vorrei in piena luce camminare, con vere parole gridare, ma il battenzio notturno mi inseguo, ma lontano nel buio di me, a fondo nel nero velluto di misteriose di assenze, di pazienze inutili, e precipita allora. India. tempo, dici. Ne ricordo come nel sogno non c'è fretta né scelta di strada né meta. Ora l'India è dentro di noi. Alla scala di Mare Carnica siamo venuti, ai roghi ardenti sulle acque, alle folle sospese sulla morte, al sogno di non vivere. Cadono i giorni, ondeggiano le vele, dove vai, ogni andare è un ritorno. Vivere è il borgo che ingoia tutte le vite. Non piangere gli anni perduti, non piangere il nulla futuro. Incanta nel tuo cuore la miseria, la sapienza è dolcezza di sapere. Come l'indù dagli occhi di febbre, giungi le mani, ascolta. Tonando si avvicina il muro d'acqua a colmare la sete dei deserti. Dalla palude sorge il bianco lotto. Bella, cosa bellissima. Brava. Terzo premio. Medaglia di bronzo e diploma a Alberta Figagli. E ricorderà da Margherita Guidacci. Alberta, siamo in attesa di sentire qualcosa da te. È arrivata ansimando questo mondo di uomo, assorbe tutto il caldo, riempie lo spazio, toglie silenzio al buio, resta felice, è solare. Io siedo qui in un angolo, lui mi fa una carezza, poi scompare su di me. Il colore e l'odore dei cappotti mi pungono e percorrono, poi esalano e ritornano, così per tutti e tutte le cose, come se fosse un respiro che segna ritmo e misura. In silenzio ho pensato che anche detto parliamo e sperando l'occasione di vedersi. Ma prima non l'ha battuto nemmeno male. Ma scherzi davvero. Io non racconto questo. Non è che io, come mi trovo, sì, perché sì, devo vivere, sì, non è che io. Ci potremmo avere una bella figura. Diploma d'onore con medaglia a Florio Longhi, che andrà a ritirarlo da Nelì Cascio Pratiche. Florio Longhi. Non ci consiglio. Diploma d'onore con medaglia a Marcello Vitale. Mi dice che venendo dalla Calabria può dire una poesia. Beh, direi anche tu. Tra l'altro il dottor Vitale è un famoso magistrato. Vedi in Palazzo Vecchio ci sta bene. Ci sta bene. Ci sarà bravo questo, molto bravo. Questo è molto bravo. Non sono d'accordo. Si intitola La verità. Una sola. Io non ho niente da dire. La verità la si è detta il mare, sciacqui, risciacqui con pianto di mantici, tutti sui fondali mossi, rovio di alghe, intere, pesci in putrene, piove, rombi di sommersa. La verità la già detta il sole, quando entra dritto al mattino e brilla sugli orecchini delle donne curve alla fonte, ricolora le dubbie mille spade dell'uomo di Milano, scioglie la neve dei pazzi che aspettano in piazza, braccia aperte, croce di Cristo, demoni strombettanti sulle infette piaghe di questa nostra carcassa, vacca decrepita, giaciglio di insetti, lazze, flosce, mammelle, materne, verrughe, sangue, cruento sangue, sangue, quanto sangue tra i rovi dell'alba tremenda in cima. La verità l'ha già detta il vento che arruba le fronde, sconvolge in cresta la verità nel cuore di un passero palpito di foglia o sulle botte spalancate di certi morti. La verità, quella vera, gli uomini non la dicono mai. Onore con medaglia a Pino Ruffo. Pino Ruffo non è tra noi, lo ritira allora Livia Ugolini. È di Verona, Pino Ruffo, lo ritira. Avrà molto anche di Girotta anche nei treni, è di Verona. Bene, gli mandiamo un pensiero. Altri 5 diplomi in onore verranno consegnati dai membri del direttivo della Camerata, facenti parte della giuria. Maria Carmela Simoni è pregata di consegnare il riconoscimento a Maria Luisa Fulgenzi. Adesso abbiamo due premi speciali, come questi due poeti. Uno per la sezione in lingua straniera, Avanna Volta, che come avete sentito dal telegramma è ancora a Los Angeles. Dico ancora perché probabilmente verrà presto a Firenze, dove tira Lidia Ugolini. Altro premio speciale è stato assegnato a un'opera fuori concorso particolarmente significativa. Il riconoscimento va a Giancarlo Bianchi e viene consegnato dal presidente Otello Pagliai. E Bianchi bravo, eh? Bravo Bianchi. Premiamo Giancarlo Bianchi. Di leggere una lirica dal suo volume Il ramo del primo sole. Scuserete che la mia lezione è quella che è, insomma. È la scrittura che è buona. Grazie. Vorrei leggere una poesia che ho dedicato a due amici, a Loredana e Giampaolo. La fiaccola arde per lo cui caldo, nell'eterno fuoco, nelle membra, alla deriva umana, mentre le mura sono apparenti veli per l'eterno tempo. Il miracolo è realtà, e tu ripetevi l'invisibile meraviglia anche me, così umano, in ogni risvolto della mia piccola, amara, piantagione sbarbata da esauste radici. Vorrei mettere nero su bianco, le parole sempre le stesse, tornano e meravigliano. Qui il mio testamento, arrivare dove si comincia. Passiamo ora alla premiazione dei testi inediti. Primo premio, medaglia d'oro e diploma d'onore a Ruth Cardenas. Ruth Cardenas è una poetessa boliviana, molto nota da noi. Prego Ruth di venire qui a leggerci un suo testo. Anzitutto voglio ringraziare alla Camerata dei Poeti per questo momento veramente stupendo, questa simbiosi di pioggia e poesia. Ti ringrazio a nome del mio paese, la Bolivia, perché io non sono altro che una cellula di quel grandissimo organismo che è il Sud America, e quell'organismo malato di giustizia. Leggerò due poesie. La prima è Ode alla mia ombra. È da tempo che volevo parlarti, errante ombra mia, e staccati dalle mie spalle e riposiamoci un attimo. Abbiamo camminato tanto, tanto da sfilacciare i nostri bordi, e ancora non siamo arrivati. Incominciamo tanti tramonti fa, un 5 di marzo, e da allora crescemo insieme fino ad arrivare alla dimensione d'oggi. Docile come il cane di strada, silenziosa e multiforme, scivolaste per le mie pazzie e i miei sogni. Fosti forma piatta nell'ora delle mie passioni malva, gigantesca forma verticale nell'ora delle mie sfide, amorfa delle mie angosce, squadra delle mie debolezze. Sì, siamo sinceri, ombra mia, e ammettiamo che in quest'ora di vita ci sentiamo ormai stanchi, ma tanto stanchi. Io di inventare nuovi contorni, tu di ripetere e ripetere il mio tutto, di consumarci ambedue, io in bianco, tu in nero, ma con il piacere di esserci odiate e amate in essenza pure. In questo profilo intimo di riposo breve, lasciami dire, ombra mia, che la tua tenera ostinazione di ampliare la mia superficie dai taloni al cielo fu soltanto illusione, poiché tu mi superasti sempre, sempre, in larghezza d'altezza. Dopotutto però, continuavo insieme, mia casa. Per domani, quando i venti che non perdonano curveranno il mio corpo, ti curverai con me e ci restringeremo in un solo gomitolo, unite per la mia schiena, fino ad arrivare al definitivo epilogo della polvere e dell'oblio. Ma contro questa strana, strana malinconia, cercando senza sosta girasoli appena partoriti, proseguiamo insieme, mia cara, proseguiamo il cammino che ancora ci resta. Finire questa poesia, che è un inno per la pace, a nome di tutti i bambini. Sono i bambini che, con il loro linguaggio, ognuno nella sua lingua, chiede pace. Devo ricordare il significato di alcuni termini che sono stranieri e che hanno un significato determinante nella poesia. Kabil. Il Kabil è il deserto salato dell'Iran, un deserto poverissimo. Gange è, come sappiamo, il fiume sacro dell'India. Masaya è un vulcano attivo nel Nicaragua, Centro America. E Morbillo, una malattia infantile che costituisce un flagello per l'India. Il Mali è una vasta regione africana inghiottita costantemente dalla siccità. Piccolo e grande Karoo sono delle terre impervie del Sudafrica. Ricorso per la pace. Dal rialzo Kabil esce l'urlo salato dei bimbi persiani. Ashti, pace, e l'urto dell'eco infrange della luna e il suo bianco silenzio. Nell'oscura India, ove i bambù si dilungano forma d'ossa, il Gange sconfessa il suo sacro peso per divenire umano. Il lamento affamato dei suoi piccoli, Shanti, pace. L'insorto massaglia nel Nicaragua dai cardi insanguinati e spacca feroce il suo ventre represso e parturisce dei suoi bambini del pianto denso. Pace. Nel profondo del Mar Morto emerge come da un cimitero d'acqua e un limo e il grido Salam! Pace! Sono i fantasmi senza dimora, i fanciulli palestinesi che in pace non riposano. Nell'Africa, infinito Atlante, dei scheletri vivi e scheletri morti, dal morbino al malì, dal piccolo carrù, frusta, al grande carrù, mitraia, detone il grido negro dei suoi bimbi, udò! Pace! E anche nel quartiere negro di Harlem, New York, un bambino si distoglie dalla sua ombra segregata e canta Peace! Pace! Sulla notte dolente del blues. Asci, scendi, passa, lam, peace, udò, pace! L'inarrestabile coro di voci bianche avanza nella notte dei tempi, avanza fino a stringere la terra nella sua inumana rotondità. Bravissima. Secondo l'ambiente respiro di Ruth Cárdenas, passiamo al secondo premio per l'inedito, conferito a Elio Casini, medaglia d'argento e diploma, lo riceve dalle mani della vicepresidente. Invitiamo Elio Casini a leggerci qualcosa. Ce la recita a memoria, quindi? No, una sola, la più breve, che sto a memoria, quindi non ho pensato di portarla. Faust, questo svenato galoppo ad inseguire fughe di domani.